Ehi, Alicio Casatto, ehi, Alicio, Daniel. Campa. Io mi sto arrivando così, Ugariè. Sì, segnale, sei da picchi di otto. Sono agganciato. Ascolto bene, dai, non c'è problema. La radio bene, vado. Chiappa, benissimo. Col elicottero. Cala. Questa è la lautata 7, russo. Va bene, Daniel, di russo. Meglio così, meglio così. L'altro l'ho messo in macchina. Sono sveglio da presto, diciamo ho riposato bene, questo la madonna ma ci bisogna vedere in mezzo, è tanto nemico. Grazie, manco i cannoni mi fanno svegliare domani. Brava, brava. Dalle 4 in giro. Dai mattina. E subito molto per la sua sinistra. Ah, va bene, dai. Stava una nuova percorsa, va. Dopo 150 euro. Ma non è manco messa male. Sono un po' gussi, vabbè. Intendo un po' così, va. Praticamente ha il piede di arrivare alla comanda secondo il proprietario 150.000 km. Già è buono. Sono chilometri reali, se è buono. Gara gara gara gara. È vero, Gari. E non mi ha risposto ancora. No. Chissà se questi sentano anche a noi. Mi piace entrare Antonio, Daniela, c'è un attimo. Ehi, Arugari, già sono qua. Thank you. attacco, ma cosa è ammassato? Scatta, guarda adesso, 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, 6, 8, sì. Gala, gala. Già va bene, qua. Ora, ora. Molla così che mi stanno splatterando un altro canale, ragazzi, è un casino, se no. E che sta splatterando, va tu? Mi sono cazzo di ginca, ginca, gente da fuori. Gava, gava. Ma adesso che te la sei usata, tu? Ma c'è per la GPS. Ma l'energy? Sì, quella lì. Sì, da fuori. Ma liscio? Guardarella. Non si è attaccato. Perché? Quando sto arrivando? Qua sei oltre di 9, però insomma sei giusto via tu. Se sono oltre di 9 va bene così. Ok. Scappa il rollmetro, con 50 watt in canna. Andare così a tutti i pinni, oh. Non passo l'aria. Mamma mia, andate più piana, no. Cosa tu? Che non ne ho più voluto. Non passo. Già non passo, guarda che sei stato in questa. È forte Antonio, la mazza ne scenda. Cappa, ma è entrato qualcun altro sopra la popolazione, chi è? Ma io ancora da segnare, no? Capito? Ormai riconosco le mura, anche se mi traiti li so. Cappa, ascolta, c'è un altro sotto, chi è avanti? Oh, il Cristian! Buonasera a lei! Non lo senti Daniele da ieri? Ma dove sei tu? Che ti ho non sei un pochettino basso, sei. Luca, vieni avanti. Lo sento a Cristian io. Sì, io l'ho sentito. Oh, Cristian, mi senti? No, ma sono stato più neanche io. Mi prendi Daniele. Cappa di Rosma, è troppo qui. No, non lo ascolto neanche io a Cristian. Cappa, no, io te l'ho sentito. Non so se lui ascolta a noi, beh. O a me. Non lo so. Gava, gava, gava, gava. Io con la cena bassa, tu. Altro. Cristian, mi senti? Io sì, tu mi senti? E dove sei? Io la campagna, io la casa. Ah, passo, sì, qui, ma ti ascolto, dai. No, qua è no. Passo, perché ci sono degli alberi. Vabbè, tanto più favore, perché sei molto più vicino, Capito. Cappa, qui, io ti sento no, qua. Ma niente, la bassa più, troppo basso, troppo basso, adesso lo... Cappa. Ehi, dimmi! Intanto, si spariti, si è. No, stavo parlando Cristian. Ma questo lo sentite, è proprio un po' più zio. Cappa. Aspetta, faccio un attimo di bianco, arrivo su. Veglia. Perché lo sentite adesso? Ma non ti stai rimontando la di punti. Sì, ho sentito, guarda, faccio la pedata. Cappa, stavo dicendo, ma non era di punti, sì. No, che c'era a casa, perché? C'è a casa tua, non era una massa. Eh sì, io avevo una ballata. Adesso mi sei arrivato fortissimo. Il bambino ha attaccato. Adesso lo senti lui? Sì. Io lo sento, qui. Ma se ne senti? Sì, adesso molto meglio. Dillo a... 4-7. Dove? Cosa c'è il mobico? No, ho Zodiac. Ma tu non l'ho più sentito, è sparito tuo fratello. Ma cosa ne hai detto? E tu che l'avevo detto io? Non l'ho più sentito, ma si faceva sentire, proprio è sparito. Non lo posso dire. No, probabilmente non posso dire che l'ha già fatto. Così fa morto. E tu non sei molato, non posso dire neanche io. Boh. Chiama chi l'ha visto. Che stavo visto per sblattare nel canale? All'intendilo. Io lo sento come. Cappa cappa. Ma cazzo Daniele, ho detto Daniele, non avrei modula. Ma... Mi fa da Italia. fissato o sono alto? No, la stazione è fissa. Ma chi è che voleva entrare, Marte? Perché non sbatterete. No, ma tu è zona vecchia o zona nuova, dici? Sinceramente non lo so. Ma che dici, non la conosco per niente io, fida. Ma tu, non è che io sia esperto di quel posto. Io sì. Io sono di Firenze, dici. Certo. Lo conosco bene, anche tu. Gappa. No, sentito più poco fa, sentito, basso, Radio 2, neanche Radio 1, Santiago 0, però ma sentito, dalla macchina. Beh, no, guarda la porta. Vabbè, tu sei un'antenata, siete messo sul vento, io sono sempre la torretta per la porta. Normale che si senta. Guarda, c'è questa GPE che è facile da montare, leggera, con questa che c'ho io, tipo una Energy, una roba del genere. Costa poco e rende tanto. Ed è bellissima, e va bene, è leggera, facile da parlare, potete fare la mazza. E che c'è sul 10? Attenzione, che c'è sul 10? Ora! Avanti ora, chi è? Ora, ora.